24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Vannoni, ma lei non ha preso un euro dall'attività di Stamina? No, neanche un centesimo. Ma pensa di farci dei soldi con Stamina? Con Stamina farà sempre solo una perdita di denaro, però è un guadagno molto più alto che non quello dei soldi. Che guadagno è? È il guadagno di salvare delle vite. Per accedere alla metodica Stamina e De Matteis devono tirare fuori subito 2.000 euro per il carotaggio che pagano ad una clinica privata, più i soldi da dare al gruppo di Vannoni. C'erano i 27.000 euro. Ma lui ci ha detto che il costo era questo e andava pagato questo. Lei ha rilasciato delle interviste dove era entusiasta, dove c'erano stati dei risultati. Perché avete rilasciato queste interviste? Perché Vannoni ci ha detto che se non si faceva il ciclo completo delle iniezioni non sarebbero servite a niente. Quindi ve l'ha chiesto lui di fare queste interviste? Sì, mi ha fatto chiamare da un giornalista. Vanno in piazza a Roma a togliersi il sangue per fare questa cura, che non so che cosa si aspettano da queste punture. Io questo non lo so, che cosa si aspettano. Il caso Stamina, che sembrava definitivamente risolto, invece è ancora aperto. Alla battaglia scientifica adesso si è aggiunto uno scontro tra la giustizia, la politica e la scienza. Proprio ieri, in Commissione Sanità al Senato, il ministro Lorenzin ha annunciato la nuova composizione del secondo comitato scientifico che deciderà sull'attendibilità del metodo Stamina. Si attende che il comitato si pronunci con solerzia, dice il ministro, ma il ministro stesso ha aggiunto che non ha intenzione di interferire nel lavoro del comitato né premere perché venga fatto più veloce. Per prima cosa, però, allora cerchiamo di capire di nuovo che cosa sono davvero le cellule staminali e come funzionano. Buongiorno, mi presento. Sono una cellula staminale e volevo dirvi una cosa. Mi avete proprio stufato, ma proprio stufato, eh? Parlate tutti di me. Politicanti, bagnanti, preti, frati, monache, ovviamente giornalisti, televisionisti, candidati al Parlamento, addirittura filosofi e musicisti, per non parlare di attori e registi, perfino impiegati e fattorini al bar, veline e letterine, senza sapere niente. Soprattutto perché ormai, avendo assunto l'autoreferenzialità da Grande Fratello, non ascoltate altro che voi stessi. Professor Guido Lucarelli, ematologo a Tor Vergata, questo che ha letto Sara Tardelli, in realtà lo ha scritto lei. Ecco, può continuare? Che cosa sono le staminali? Sì, io l'ho scritto facendo finta di essere una cellula staminale, perché è molto semplice. Noi tutti nasciamo perché lo spermatozoo del bambù è andato dentro l'ovulo della mamma, si è formata una cosa che si chiama zigote. Per un po' di tempo questo zigote, che è una cellula, si divide 2, 4, 8, 16, 32 in una maniera che si chiama simmetrica, finché arriva a un livello che si chiama morula, blastula, eccetera eccetera. Poi a un certo punto succede il Big Bang, cioè nell'ectoderma, mesoderma, endoderma, che fa parte dello sviluppo embrionale, dei grappoli di cellule diventano cellule staminali, quelle che io le chiamo così per me, sono toscano e faccio delle definizioni toscaneggianti, sono cellule staminali assolute, sono quelle che dispongono tutte insieme e poi si dicono: tu vai avanti e fai il fegato, tu vai da quella parte là e fai il sangue, tu vai da quella, tutte e due sono cellule staminali eterne, perché si dividono lasciando una come se stessa e una va avanti a fare il sangue, il fegato e così via. E quindi? Quindi ci sono due livelli di cellule staminali, una assoluta e una che si evolve. È molto semplice, non è una cosa che ho inventato io. Torminoli, gli ematologi non sono più intelligenti degli epatologi o dei cardiologi, ma siccome noi dall'epoca di Noè abbiamo la possibilità di prendere l'organo che studiamo con l'aspirato midollare o prendendo il sangue, il nostro organo è studiatissimo e abbiamo visto la cellula cellule staminali 40 anni fa. Uno non può andare a bucare il pancreas e studiare il pancreas per vedere le cellule staminali del pancreas, per cui deve arrivarci per via, chiamiamo così, ideologica. Ecco, oggi siamo lì. Ecco, ma adesso tutti pensano che la parola staminale sia sinonimo di miracolo. Sì. Perché? No, è perché c'è una sopravvalutazione del risultato. Allora, come ha dimostrato bene, io l'ho visto per televisione, la professoressa Cattani ha fatto vedere il suo laboratorio, che è grande, pieno di cervelloni, pieno di attrezzature, pieno di macchine, tutti studiano il passaggio dalla cellula staminale assoluta e cercano la maniera di dirgli: senti assoluta, vieni giù, fammi questo serbatoio per riparare la pelle oppure per riparare il sistema nervoso. Questo oggi è stato divulgato dalla stampa ed è bellissimo perché è uno studio, ma fino adesso non c'è ancora riuscito nessuno. Ah, ecco, per... un'ultima domanda, professore. Lei ha dovuto gestire per tutta la vita il dolore e la speranza. Sì. Come si maneggiano? Beh, si maneggiano con sofferenza, una, diciamo, conclusione sintetica di quasi tutta la mia vita di dottore, quasi dottore di campagna. Le regine della guerra contro le malattie sono le mamme, le regine assolute, quelle che smuovono i monti, che spingono i medici ad andare avanti, che fanno venire la rabbia di combattere, che poi alla fine mettono sotto anche i politici che sono contrari. Il dottore partecipa e combatte, ma deve avere questa forza. Forza qui. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Nonostante medici e ricercatori appunto continuino a schierarsi contro il metodo stamina, queste infusioni vengono praticate ancora su alcuni pazienti. È il caso della decisione del Tribunale di Pesaro, che ha nominato Marino Andolina, il vicepresidente di Stamina Foundation, ausiliario del giudice di Pesaro, e lo ha quindi autorizzato a effettuare un'infusione a Federico, un bambino di 3 anni, gravemente malato, proprio presso gli ospedali civili di Brescia. Ma sentiamo cosa ci ha detto il ministro Lorenzin proprio riguardo un caso analogo che coinvolgeva però il tribunale di Marsala e sempre lo stesso Marino Andolina. Il tribunale di Marsala ha obbligato gli ospedali di Brescia, dove si pratica la cura stamina, a riprenderla. Ma com'è possibile? Ah, perché la prima riforma che noi dobbiamo fare è culturale in questo paese, per cui la politica faccia la politica, la scienza la scienza e la magistratura la magistratura. Però il consulente del tribunale di Marsala che ha preso questa decisione è Marino Andolino, che è il vicepresidente della fondazione di Vannoni. Ma è normale, eh? No. Anche se il tribunale di Torino ha definito il professor Vannoni un ciarlatano, a Marsala procedono. Questi sono i misteri del nostro paese, che forse poi qualcuno dovrebbe anche preoccuparsi di quello che accade a queste persone. Ma lei da che parte sta? Io sto dalla parte della verità scientifica. Che è chiara. È stata chiara dal primo comitato, adesso vediamo cosa dire al secondo, però tutti i più grandi scienziati del mondo si sono espressi in modo molto chiaro e netto. Intanto aspettiamo il ministro Lorenzin, abbiamo sentito, ha detto che c'è da risolvere prima di tutto una questione culturale alla base, cioè la magistratura deve fare la magistratura, ognuno deve fare il suo mestiere. Mario, però è veramente un rompicapo. Sì, lo è. Devo dirti, io non sono un tecnico, quindi me ne guardo bene dal dare giudizi. Certo, è un intrico pazzesco, perché abbiamo la sovrapposizione della questione giudiziaria con quella scientifica, che mi pare un po' più acclarata, almeno a leggere i risultati di alcune ricerche. Infine ci sono i malati, i quali ovviamente sono tutti a caccia di che cosa? Della speranza di vita. E sai, la speranza è un fortissimo sentimento che, come diceva il professore, che può essere alimentato anche qualche volta o spesso dalla bugia. La speranza e la paura sono due grandi forze che muovono la contemporaneità, anzi la storia, da sempre. Pietrangelo? Io vorrei appunto sottolineare quella frase usata dal professore: le regine della guerra contro le malattie sono le mamme. Ciò significa che soltanto la sostanza, il pudore nel fronteggiare la malattia è fondamentale. Il pudore significa anche un impegno da parte del medico di operare e di poter operare senza avere sul collo il fiato della speculazione politica, del protagonismo della politica riguardo a vicende delicatissime, fino ad arrivare al cortocircuito. L'abbiamo sentito, certo, qualche giorno fa, quando qualcuno si è fatto vanto di poter operare nel suo ruolo di medico anche nel facilitare la morte ai pazienti qualora lo richiedano. La scienza, la medicina ha sempre operato nella sua storia, nel percorso di ricerca e di fatica, sempre in un ambito di umanità che è custodito dalla discrezione e dal pudore. Quando invece interviene la pubblicità, la speculazione, si arriva all'abominio di far carne di macello di milioni di pazienti. Ecco, 800 24 00 24, il numero verde se volete chiamare, sms 349 238 6666. È stata citata dal professore anche la senatrice a vita Elena Cattaneo, che è la direttore del laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologiche delle malattie neurodegenerative dell'Università di Milano, è sempre stata contraria a questa cura. E solo due giorni fa, dopo la notizia che il Tribunale di Pesaro aveva dato il via libera a una nuova infusione, in un'intervista ha dichiarato che la decisione è un impazzimento giudiziario senza precedenti, perché Andolina è un medico senza alcuna competenza, dice la senatrice, in materia di malattie neurologiche e staminali. Sentite cosa pensa del metodo stamina di Vannoni. Senatrice Cattaneo, solo lei tra i grandi ricercatori si è schierata subito contro il metodo stamina. No, non solo io, eravamo in tante e c'erano dei grossi motivi per schierarsi contro. Ecco, ma cosa l'ha convinta? Non c'era niente di visibile, non c'era niente di concreto, nessuna competenza, solo un grande bluff. Un grande inganno di massa, insomma. Un inganno di massa. Dovuto a cosa? Dovuto al fatto che è difficile spiegare, c'è una sofferenza, ci sono persone con malattie, bisogna star loro vicino, ma non si possono somministrare inganni. Lei ha detto stamina è il più grande deragliamento deontologico nell'ambito della medicina, nella storia della Repubblica, addirittura? Secondo me sì, non mi preoccupa il ciarlatano, i ciarlatani sono sempre esistiti, mi preoccupano le istituzioni che non riescono a tutelare i malati e espongono a questi rischi. Ecco, lei ha parlato di intrugli somministrati per 18 mesi, sì, ma da medici consapevoli? Da medici partecipi. Colpevoli? Io penso che abbiano delle responsabilità nei rispetti anche della loro deontologia. Ne ha parlato col ministro Lorenzini? Ne abbiamo parlato diverse volte. Ha preso la strada giusta il ministro? Assolutamente no? Sì, cercando di mettersi di mezzo quando ha potuto farlo. Ecco, avete sentito, molti giovani si domandano perché studiare e prepararsi se poi il parere degli scienziati non viene ascoltato. Per fortuna, per avere una nota di ottimismo, ci sono ancora molti ricercatori impegnati a scoprire nuove cure e a smascherare delle brutte malattie. Infatti sono state calcolate tutte le pubblicazioni più importanti degli scienziati di tutto il mondo fatte in 15 anni per selezionare i migliori 400 scienziati. Ebbene, 6 ricercatori italiani fanno parte di questo Olimpo. Insomma, abbiamo una specie di squadra mondiale. Siamo qui in diretta mondiale per commentare la partita più difficile della nostra vita, quella per vincere le malattie che minacciano la salute. Sono stati selezionati su 15.000 ricercatori in tutto il mondo i 400 più forti e talentuosi. Quelli che schiera l'Italia sono 6. Scendono in campo con il numero 1, Alberto Mantovani, immunologo. Con lui il sistema immunitario può parare tutto, anche i rigori. Con il numero 2, Giuseppe Remuzzi, nefrologo. Con lui i nostri reni intercettano tutti gli scarti del sangue. Con il numero 3, Antonio Colombo, cardiologo. Con lui il cuore non perde un colpo. Con il numero 4, Giuseppe Mancia, cardiologo. Con il numero 5, per un centrocampo solido, c'è Vincenzo Di Marzo, biochimico. E in attacco, con il numero 6, Alberto Zanchetti, cardiologo, mago del pressing. Infatti ha individuato i marcatori genetici dell'ipertensione. Tifiamo per la ricerca. Professor Alberto Mantovani, uno dei magnifici 400 nel mondo, che effetto le fa? Beh, fa un effetto di piacere, non solo e non tanto per me stesso, quanto per la mia istituzione, per il mio gruppo e per i giovani che lavorano con me. Io sono solo la punta dell'iceberg. Lei è uno specialista in studi sull'immunità innata. Ce la spiega in due parole che cos'è? Noi abbiamo dei meccanismi di difesa che sono quelli che funzionano ogni giorno e in ogni minuto per difenderci da tutto quello che ci può causare danno, dai microbi per esempio o patogeni. Le cellule dell'immunità innata muoiono a centinaia di milioni ogni giorno per difenderci. Sono gli eroi, quelli che sono stati definiti degli eroi senza ballata del sistema immunitario. Ah, fantastico. Ma perché è importante conoscere i meccanismi? Perché se loro muoiono ci saranno di quelli che nascono. Sì, assolutamente. È fondamentale conoscere i meccanismi perché per migliorarli. Per esempio con i vaccini perché quando funzionano male sono causa di malattie. La cosa sorprendente è che causano non solo le malattie legate al sistema immunitario, ma anche malattie molto diverse e molto lontane fra di loro. Tipo? Il cancro, per esempio. Nel cancro abbiamo queste cellule reclutate all'interno dei tumori vengono corrotte dalle cellule tumorali. Si comportano a quel momento come dei poliziotti corrotti, cioè invece di difenderci promuovono la crescita e la disseminazione metastatica dei tumori. E lei con la sua ricerca, voi con le vostre ricerche, che cosa avete scoperto esattamente oltre a questo, il come contrastarlo? Abbiamo scoperto innanzitutto questo concetto, è uno sconcetto che abbiamo scoperto noi, sì. Questo che io ho riassunto con il termine di poliziotti corrotti, e questo è uno dei motivi per cui siamo molto citati. Abbiamo scoperto poi quali sono le molecole che guidano il traffico dei globuli bianchi all'interno del nostro organismo. Quindi i globuli bianchi devono pattugliare il nostro organismo, devono arrivare al momento giusto, nella quantità giusta, nei tempi giusti. Ecco, ci sono delle molecole che in gergo chiamiamo chemochine, che sono fondamentali per guidare il traffico dei globuli bianchi. Ecco, ma e noi abbiamo contribuito a scoprire queste molecole. Ecco, ma quanto tempo del suo lavoro dedica alla ricerca? Dipende da quanto è il tempo. Io lavoro. Non c'è un fine settimana che non lavori e quando sono a casa lavoro alla sera. È molto difficile perché anche quando vado in spiaggia d'estate ho un po' una coperta di Linus. Un po' studia, un po' pensa, un po' ricerca. La mia coperta di Linus sono i lavori da legge. E lei si sente più ricercatore o più professore? Le due cose come si integrano? Ma io penso di avere raggiunto la pace dei sensi, nel senso che mi piace pensare a me stesso e al mio gruppo come a un triangolo della conoscenza in cui c'è la ricerca, c'è l'insegnamento e c'è la cura dei pazienti. Non riesco a rompere a dividerle. Di questo triangolo. Il triangolo magico. E alla scrittura di tutto quello che ricerca, che trova, quanto tempo dedica? La scrittura vuol dire tante cose, scrivere i lavori, vuol dire correggere i lavori, vuol dire valutare i lavori degli altri in un meccanismo che chiamiamo di revisione fra i pari. Quello è il lavoro di regola della sera e del sabato e la domenica. La revisione fra i pari vuol dire che quando un lavoro scientifico viene sottoposto a una rivista importante, chiedono a uno dei pari, cioè una persona che è considerata autorevole, di valutarlo. Facciamo questo esercizio in modo anonimo e reciprocamente. I miei lavori sono giudicati dai miei pari e io giudico i miei pari. Naturalmente. Questo è un servizio che si fa alla comunità, una comunità di pari. Senta, e per chiudere, ma di quante persone è composto il suo gruppo di ricerca, quello stretto, voglio dire il cerchio magico? Il mio cerchio magico è fatto da tanti giovani che vengono da un po' tutte le parti del mondo e comprende circa 30 persone che vengono da tutte le parti, dal Giappone. L'ultimo che è arrivato è giapponese, ho appena accettato una persona dalla Croazia, dalla Francia, da Cuba, dal Brasile. È una generazione global ed è una generazione global al servizio degli italiani. Un'atmosfera fatta di un ambiente internazionale fa crescere meglio i nostri giovani ed è il miglior modo per esportare la cultura e il modo di essere italiani. Quindi in questa Italia che si autoflagella su tutto, un'isola felice? Un'isola che cerca di essere felice, che cerca di servire il paese. Mi dice ancora una cosa, la prossima ricerca, quella a cui si sta applicando di più adesso e che vorrebbe portare in porto, qual è? Domani esce su una rivista scientifica internazionale molto importante, sì. Esce un lavoro, la rivista si chiama New England Journal of Medicine, uh-huh. È la rivista di medicina più importante, esce un lavoro in cui portiamo al letto del paziente per la prima volta, assieme a molti altri colleghi, in particolare dell'Università di Perugia, una molecola che abbiamo scoperto 20 anni fa, abbiamo scoperto il gene 20 anni fa, adesso mostriamo che è fondamentale nei pazienti che vanno incontro a trapianto di midollo. Ecco, il mio sogno è di portarlo come agente terapeutico e speriamo di fare la prima sperimentazione clinica entro l'anno. Ecco, ma perché, scusi, mi interessa molto, perché il trapianto di midollo con questa scoperta, che vantaggio avrebbe? Cioè, che cosa, quale sarebbe il progress? Noi perdiamo, nel senso che muoiono o comunque hanno malattie gravi, molti pazienti con trapianto di midollo, cioè pazienti con tumori che vanno incontro a trapianto di midollo, non a causa del cancro ma a causa di agenti infettivi. E uno dei più tremendi è un fungo che si chiama Aspergillus fumigatus. Noi abbiamo scoperto una molecola che è dell'immunità innata, appunto, che è fondamentale per la resistenza contro Aspergillus fumigatus. Se un paziente ha un genotipo, fra virgolette, sbagliato, cioè un gene meno efficace, è più a rischio di infezione da Aspergillus fumigatus. Questo è un primo passo. E con la vostra scoperta si può? Possiamo identificare i pazienti più a rischio e quindi seguirli meglio. E ci auguriamo in un futuro vicino dargli questa molecola. Ecco, Vito Mezzina, padre di Federico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Ci dica. Allora, io vorrei soltanto di questo. Pronto? Pronto? Bimbi, no, scusi, no. Sentiamo malissimo. Mi devo fermare purtroppo perché sono in macchina. Sì, se si ferma per cortesia, perché sennò non sentiamo. Allora, vi dicevo, noi siamo i primi come genitori di bimbi malati a tifare per la scienza e per la ricerca. Lo so. Non tifiamo noi per i ciarlatani, noi tifiamo per la scienza e per la ricerca, ma i tempi della ricerca noi purtroppo non li abbiamo. Certo. Io non ho 20 anni da aspettare 3 fasi di sperimentazione o da attendere progetti futuri. Io ho mio figlio a casa che sta male, è in fin di vita. Quindi noi come genitori abbiamo il diritto, ma soprattutto abbiamo il dovere di intervenire e di fare tutto quello che è possibile. Nelle nostre possibilità. Questo è sicuro. Vorrei ribadire anche al ministro, che ho avuto anche la fortuna di incontrare qualche settimana fa, che l'Italia ha una Costituzione. In questa Costituzione sono previsti 3 poteri ed è prevista anche la separazione dei poteri. Quindi noi abbiamo un potere questo lo sappiamo, un potere esecutivo e la magistratura. Quindi dovremmo cercare, almeno in via teorica, di evitare le commistioni fra i 3 poteri. Va bene. In più vorrei dire a voi giornalisti, che comunque seguite tanto il caso Stamina, non so se per far polemiche o per fare i giornalisti. No, per cercare di capire, semplicemente per cercare di capire. Allora, dottor Minoli, il caso Stamina che voi state affrontando è tutelato anche da leggi, nel senso c'è una legge del 57. Sì, no, ma però non ne abbiamo parlato di tutto questo processo, noi abbiamo solo detto qual è la situazione attuale. State facendo il processo a mio figlio che no, assolutamente, naturalmente, noi le auguriamo che suo figlio possa riprendersi e guarire. Grazie, signor Salvatore, auguri. Signor Vito, abbiamo ancora una telefonata, Salvatore da Catania, rapidissimo, abbiamo pochissimi minuti. Buongiorno, solamente per dire che sono rimasto veramente colpito e toccato dall'intervento del professor Lucarelli, soprattutto quando ha parlato in maniera così bella della genesi della vita e poi del ruolo delle mamme nel combattere le malattie. Grazie. Mix 24. Sopra la giostra di Bastien, quanti sederi han dondolato, generazioni quante mani in piedi sulla staffa, braccio allungato, hanno afferrato con destrezza l'anello lucido appeso a quella boccia. E allora, Pietrangelo? E allora è che si deve far partire la giornata con una rincorsa, una spinta verso l'anello lucido, quello che sta in cima alla torre di cartapesta, ed è qualcosa che faccia accendere la festa che è nascosta in ogni giorno feriale. Ora non ci crederete, io lo so che non ci crederete, però oggi tutti in metropolitana sono diventati in un colpo bambini. Tutti si sono messi in fila ai sedili volanti e sono stati tutti pronti e velocissimi a catturare il foulard in palio per farne dono alla più bimba tra tutte, niente meno che Persefone, il cui abito leggero stordiva di felicità gli umani, troppo umani, in metropolitana. Sopra la giostra di Bastien, quanti sederi e quante gomme al vento, se vuoi vederne ancora. Insomma, uno. Dai sogni alla realtà con le bolle. Vai. Che pensi di fare, Miller? Per quale motivo sei fuori dalla tua zona? Sono qui per trovare armi e salvare vite. Sarà un po' complicato. Non per me. Allora, questo era Green Zone, un film sull'Iraq, la ricerca delle armi di distruzione di massa. La storia continua a darci dei cicli che si ripetono. Stavolta, come avevamo purtroppo visto da un po' di tempo, l'Iraq sta veramente collassando. Esplodendo di nuovo. Sta collassando. L'ISIS, che è questo gruppo composto da non sono tantissimi, ma sono molto ben organizzati militarmente, sta avanzando un po' in tutto il paese. Stamattina avanzavano verso sud, si dirigevano verso Baghdad. L'esercito iracheno è praticamente in rotta, cioè si sono dati alla fuga. E gli americani? E gli americani, la cosa che oggi è sul New York Times è molto interessante e dice molte cose sulla politica estera americana di Obama, hanno rifiutato, almeno per ora, di bombardare le postazioni delle milizie dell'ISIS, sia con i caccia sia con i droni. C'era una richiesta segreta, ma ufficiale, del premier iracheno al-Maliki. Cosa succederà? Se non ci saranno interventi, l'Iraq ripiomba immediatamente nel caos. È una situazione drammatica. Sì, molto molto difficile. La seguiremo e faremo una puntata tutta sull'Iraq prossimamente. Sì, por favor, puoi lanciarmi una prugna, un avvocato, una mela cutugna, perché il destino a me me fitico, m'ha fatto un nero e stitico. Io la banana non la mangio. Allora, vabbè. Il Bonzalone, passiamo un po' d'allegria, ci vuole dopo, dopo questa notizia di poco fa. E la potenza del calcio. Segnalo che le vendite di un colosso dell'elettronica di consumo come la Sony sono su del 30%. Sono oltre 2 miliardi di dollari di fatturato e per la prima volta negli ultimi 10 anni Sony ha realizzato profitto dalla sua divisione che produce televisori. È un settore dove tu sai oggi i profitti sono molto difficili da fare. Molto, certo. Perché la concorrenza quindi è agguerritissima. Calcio brasiliano. Viva il calcio brasiliano come questo qui. Guarda, senti. Vabbè, il grande Cotechigno. Il grande Cotechigno e qui esplode la quota rosa che da oggi aggiungerà presenza a presenza. Vai Sara. Notti magiche, inseguendo gol. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Parisi, piangente, abbracciato dal nostro commissario tecnico. Il cielo è azzurro sopra Berlino, siamo campioni del mondo e non ci facciamo mancare nulla, quindi non potevamo non avere una quota mondiale. Notti magiche, speriamo veramente. Tra l'altro, a proposito di droni, notizia di oggi: l'allenamento della Francia è stato spiato da un drone piccolo e nero, stando alle cronache. Comunque, la puntata della storia, curata da Marina Milone, oggi è dedicata a Vittorio Pozzo, calciatore, giornalista, allenatore, tra l'altro l'unico CT della nazionale azzurra che ha vinto due campionati del mondo, uno nel 34 e uno nel 38. Tra i tanti che ha allenato c'è anche Giampiero Boniperti, che ricorda così il momento in cui Pozzo gli ha dato la maglia azzurra. Quando mi ha consegnato la maglia della nazionale, parlato 4-5 minuti e io sono uscito un po' con le lacrime agli occhi e col cuore che mi usciva dal petto, perché mi ha descritto questo avvenimento come la cosa di un'importanza capitale. Ecco, Boniperti ci ha raccontato la sua emozione, adesso noi vorremmo sapere le vostre, cioè che cosa provate quando guardate la nazionale. Numero 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Non gioco più, me ne vado. Non gioco. La bella grande Mina Salamini. Salamino cinese oggi, perché per un attimo Matteo Renzi ha avuto il dubbio di trovarsi a Pachino invece che a Pechino, perché le informazioni, sebbene questa sia l'epoca di internet, sono lente ed è stato così forte, vorrei immaginare che sia stato così forte l'imprinting di Silvio Berlusconi, che davanti a Matteo Renzi le autorità cinesi, per metterlo a suo agio, gli hanno organizzato innanzitutto un'ospitata, Giovanni, sai dove? A loro Porta a Porta, che dovrebbe essere più o meno un miliardo di spettatori. Miliardo di spettatori. Lo share a Tinghite. Vabbè, fantastico. Poi, che cosa hanno fatto? Gli hanno organizzato un picchetto d'onore con soldatesse molto, ma molto carine. E le cronache di oggi riferiscono di un cosiddetto, non lo so se dirlo, se lo dico bene, Mario, tu mi correggi? Correggo nel caso, allora, ti aiuto. Body language, così? Come si pronuncia? Body language, vabbè. Body language, ostentato. Quindi lì i cinesi hanno cercato di essere particolarmente calorosi rispetto al picchetto d'onore. Però si sono complimentati, sai su che cosa? Soprattutto i cinesi, sai su che cosa? Su cosa? Sul lavoro svolto dal governo in tema di riforme. Per fortuna. E se quindi ne sono, immaginiamo che ci sarà un bilaterale tra il Soave, ministro competente alle riforme, il Soave, ministro Boschi, che incontrerà il suo omologo, che è il celeberrimo Conchi Lai. Ascolta. Chiederò una lettera da consegnare a un mio amico. Conchi Lai. Con nessuno, Don Vito. Conchi Lai. Con nessuno, parola mia d'onore, con nessuno. Conchi Lai è un mio amico. È il più grande allenatore di tutte le lotte cino-nipponiche. È un parente, Conchi Lai. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Dalla Cina al Giappone, e allora sbagliavo. Shinzo is the best. È molto bello, oggi ho letto su Bloomberg un pezzo fantastico di Noah Smith, che un tempo era abescettico e oggi invece incorona Shinzo come il miglior premio del mondo. Lo chiama Uragano Abe. Esalta la Womenomics e il fondamentale lavoro di Koichi Hamada, che è il suo economista, e Haruhiko Kuroda, il governatore della Banca del Giappone. Voi direte, ma che ce frega? Ce frega. Ci frega. Questi vanno forte, vai. Ci frega pubblicità. Mix 24. Il canzoniere. Bella o non bella, tu sei tiranna come quelle che l'orgoglio della loro bellezza rende crudeli, perché sai bene che per il mio infatuato cuore tu sei il gioiello più bello e più prezioso. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, SMS Salamino. Cos'è la strega? Oh, un liquore italiano. Sull'etichetta c'è una strega. Dicono che se due persone lo bevono insieme, lo berranno sempre insieme. Ieri la cinquina del premio Strega. Catuzzella, non dirmi che hai paura. Francesco Piccolo, il desiderio di essere come tutti. Antonio Scurati, il padre infedele. Francesco Pecoraro, la vita in tempo di pace. Antonella Cilento, con il piacere infinito delle donne. Chi vincerà? Ovviamente un romanzo di autocoscienza della sinistra, una collettiva automaticamente premiato, insomma diciamolo, i comunisti già vincevano i littoriali con il Duce, vuoi che non vincano adesso con Renzi? Sarà sempre Kalinka! Tremendo. Stefano da Siena, siamo per i ricordi dei mondiali al volo. Esatto, buongiorno signor Minoli. Buongiorno. La seguo sempre. Qui abbiamo la Tardelli che si occuperà dei mondiali. Sempre. No, volevo solo intervenire dicendo che di recuperare un attimo l'orgoglio nazionale anche tramite solo una semplice partita di pallone. Che meraviglia. È una meraviglia, io sento tante emozioni. Sgoglio quando vedo la nazionale. Bene. Non potendo mangiare carne ci accontentiamo del brodino. Sì, vabbè. Mamma mia, professor Simonelli, grazie Stefano. Professor Simonelli, allora dov'era il canone ieri sera? Facile, domanda facile. Domanda facile, però posso rispondere in musica? Sì, certo. Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridare forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Vabbè, professore, ma adesso anche di quelli che non siamo la zanzara noi, siamo Mix 24. Questo è un brano tratto da Berlinguer, ti voglio bene. Ieri sera il canone non poteva che essere su Sky, che ha dedicato addirittura due canali, Sky Cinema e anche Sky Arte, al film di Veltroni quando c'era Berlinguer. Però anche la Rai ha fatto molte rievocazioni, Rai Educational, Storia, non so quale. Però insomma, gli è piaciuto. Dire questa cosa nuova, un caso di distribuzione oltre che di produzione. Sky produce un film, il film esce nelle sale, ha notevole successo nelle sale e poi nel giro di due mesi approda su due canali televisivi, a testimonianza che il film è un film e quindi va su Sky Cinema, ma è anche un prodotto artistico e quindi va su Sky Art, insomma ha un valore storico, culturale, ma anche, come insisto sempre a sottolineare, anche la fattura, il modo di fare le cose al di là dei contenuti. Mario, è importante. No, io, Mario? No, dissent opinion, sarò l'unico in Italia a dire una cosa, è brutto. Non è piaciuto. Benissimo. Intanto Piero da Vicenza risponde all'invito di Sara Tardelli e dice: mondiali dell'82, avevo 16 anni, finita la finale, siamo usciti a festeggiare. Nel 2006 ho guardato la finale con mio figlio di 16 anni, ho rivissuto la mia felicità e quando è uscito a festeggiare sono scoppiato a piangere. Piero da Vicenza, hai sentito Sara? Mi sembra una bellissima cosa. C'è uno che ha indovinato, Giuseppe Catalano. Il canzoniere è il sonetto 131 di Shakespeare. Perfetto, è arrivato un tweet. Fantastico, su Twitter, questa volta non la telefonata. Un Feltrinelli. Un Feltrinelli per lui. E intanto, professore, posso fare un controcanzoniere? Faccia controcanzoniere. Controcanzoniere. La velocità, le veloci eternità. Noi appassionati di calcio abbiamo un modo ulteriore di misurare il tempo di cui con certezza sono privi gli altri individui, lo svolgimento del campionato del mondo ogni 4 anni. Ha visto professore, noi seguiremo il campionato del mondo in modo speciale, lei ha un ricordo speciale? Ne ho moltissimi. Dedica uno solo per Sara che sarà contenta. In questo momento il mio pianto quando Baresi sbagliò il rigore e condannò l'Italia a non vincere contro il Brasile, perché quella è una storia tragica, drammatica, è bellissima. Baresi si fece male alla una delle prime partite, uscì, fu operato e rientrò in tempo per la finale, fu il migliore in campo. Professore, parlano di canone i nostri ascoltatori e dicono il canone era da paragone, molti incidenti della storia, qualcuno veramente che parla chiaro. Bene. A lei non piace paragone? Non mi piace il talk. Di tutti i talk paragone è quello che più. Però devo contraddire Secchi. Il film di Deltroni è bello. Limite. Potrà avere dei gusti diversi. Tutti quanti. Abbiate pazienza. Ha detto Buttafuoco, se i comunisti vincevano i littoriali, figuriamoci adesso. No, e ci sono gli auguri, segnalo, siamo in zona mondiale, ci sono gli auguri del Papa, giocare tutti con spirito fraterno. di vera fraternità. Quindi, va bene, mi raccomando. Speriamo che vada così. Professore, ancora sembrava Mozart, spirito fraterno, la regina della notte. Insomma, è un buon augurio. E manca il cappuccio e i guanti, squadra, compasso. Cioè, veramente ha perso la testa. Cioè, ha perso la testa. Chiamiamo Dario Fo, che lo sistema. Va bene, no, anzi, è stato lui quella volta veramente a sistemarlo. Va bene, professore, allora ancora una battuta? Ancora una battuta. Ieri inaugurato il mondiale da Rai 1 con te, tutto bellissimo, tutto, era meraviglioso. Ma, ecco, bello. Io invece questa volta dissento io. Bene. Si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio, ma è stato fatto benissimo. Dopo la pubblicità, la storia di Vittorio Pozzo e dei primi 50 anni del calcio in Italia.